100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Sono giornate decisive per due interventi del governo che riguardano le banche, che da un po' di tempo sono in attesa dell'esame per l'approvazione al Consiglio dei Ministri, che a quanto sembra potrebbe arrivare domani o comunque entro fine settimana. La prima misura riguarda gli obbligazionisti subordinati delle quattro banche insolventi, Banca Etruria, Banca Marche, Carichieti e Cariferrara. I clienti di queste banche si sono visti azzerare il valore delle loro obbligazioni. Ora si tratta di capire con esattezza quale sarà la procedura che verrà adottata per riconoscere l'indennizzo a questi risparmiatori, cioè chi avrà diritto a un rimborso automatico e chi invece dovrà passare dall'arbitrato gestito dall'autorità anticorruzione. Poi c'è un tema forse ancor più impegnativo in discussione, che si lega a doppio filo alle difficoltà che sta vivendo in queste settimane una parte del mondo bancario, anche a causa del peso eccessivo nei propri bilanci dei crediti in sofferenza. E qui sappiamo c'è l'impegno del governo per trovare una soluzione in grado di dare più stabilità, più certezze a tutto il sistema del credito. Il decreto legge in arrivo in questi giorni dovrebbe razionalizzare alcune misure in tema di norme fallimentari, con la finalità di rendere più veloce le misure esecutive nei casi di insolvenza. Sono aspetti molto delicati sui quali è certamente necessario fare qualcosa per ridurre tempi che sono da noi molto più lunghi rispetto a quanto avviene in altri paesi, ma dove ovviamente è necessario muoversi anche con molta cautela e valutare bene l'equilibrio tra le esigenze dei creditori e quelle dei debitori. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. Per la prima volta nella storia d'Italia l'aspettativa di vita degli italiani è in calo. Lo ha ribadito oggi il rapporto Osserva Salute, l'osservatorio delle regioni sulla sanità, che ha rielaborato in verità i dati dell'Istat, che ha annunciato già a metà febbraio il sorpasso dei morti rispetto ai nuovi nati, 653.000 contro 488.000. L'Italia è diventato un paese in cui aumentano gli over 65, che sono ormai il 22% della popolazione, e diminuiscono i bambini e i ragazzi fino a 14 anni, che sono in calo al 13,7%. Questa dinamica induce, per un effetto solo statistico, anche un abbassamento nell'attesa di vita, che è passata così da 80,1 anni per gli uomini e 84,7 per le donne, mentre l'anno scorso erano rispettivamente di 80,3 e 85 anni. L'osservatorio non considera quindi il fatto squisitamente aritmetico-statistico e commenta questi dati come un segnale di scarsa cultura della prevenzione e come un segnale di scarsa attenzione alla spesa sanitaria. È vero che nonostante qualche miglioramento gli italiani sono sedentari e fumano ancora molto, che è poco diffusa la cultura dei vaccini, che sono ben al di sotto dell'obiettivo fissato del 95%, ma Osserva Salute usa il quadro a tinte fosche per sollecitare in realtà un aumento della spesa pubblica in sanità, che è passata da 112,5 miliardi nel 2010 a 110 nel 2014. In realtà il controllo della spesa sanitaria è parte integrante del piano di spending review e di lotta agli sprechi ed è irrinunciabile per l'Italia. Non è facendo un uso terroristico dei dati che si può invertire il corso della razionalizzazione della spesa pubblica. Di margini per recuperare efficienza nell'uso dei presidi ospedalieri e nell'uso dei posti letto ce ne sono ancora tanti. Semmai il dato che deve preoccupare tutti è che gli italiani non fanno più figli ed è su questo che bisogna concentrarsi. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.